Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Non ce l'ho fatta, chiedo scusa per questo. Il mea culpa di Veltroni dopo le dimissioni da segretario del Partito Democratico. Sento, spiega Veltroni, di non avere corrisposto alla spinta di innovazione. Sabato all'assemblea costituente del partito. Ha confessato uno dei due rumeni fermati per lo stupro della Caffarella. Su di lui pesava già il sospetto di un'altra violenza. Fondamentale la testimonianza lucidissima delle due giovani vittime. Migliorano le condizioni del professore accoltellato dal tredicenne a Chioggia, il capo della polizia, un ragazzo introverso ma normalissimo, proveniente da una famiglia normale. La Commissione europea propone di aprire la procedura di deficit eccessivo nei confronti di sei paesi, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda, Lettonia e Malta, che nel 2008 hanno superato la soglia del 3% nel rapporto deficit-PIL. Almunia, nel 2010 ci sarà una ripresa della crescita economica. Confcommercio, peggiorano le previsioni per il 2009. Nei prossimi 12 mesi il PIL registrerà un calo dell'1,8%, giù i consumi dello 0,9%. E allora cantiamoci su. Sanremo, la prima serata è andata decisamente bene. Oltre 14 milioni e 170 mila gli spettatori, con uno share nella prima parte di oltre il 47%. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Maria Piera Ceci. Non ce l'ho fatta, chiedo scusa. Così dunque Walter Veltroni ha commentato questa mattina la sua decisione di dimettersi da segretario del Partito Democratico. Non torna dunque indietro Veltroni il giorno dopo il terremoto politico che è partito dalla Sardegna. E oggi si è riunito il coordinamento del PD, che ha preso atto delle dimissioni di Veltroni e ha convocato per sabato prossimo l'Assemblea Nazionale per eleggere un segretario reggente fino al congresso. Ma torniamo alle parole di Veltroni. Siamo in collegamento telefonico con Elisabetta Fiorito. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno, innanzitutto un addio amaro, quello di Walter Veltroni alla guida del partito. Il segretario ammette la responsabilità per la sconfitta elettorale in Sardegna. Non ce l'ho fatta a fare il partito che sognavo, dice Veltroni, e che sognavano 3 milioni di elettori. Una missione fatta con amarezza, ma Veltroni vuole guardare al futuro del partito, al prossimo passo, magari al congresso, e non manca di lanciare qualche stoccata agli avversari interni al partito. Sentiamo. Io mi auguro che adesso possa esserci una soluzione all'Assemblea Costituente e poi ci possano essere mesi per vincere le elezioni amministrative e le elezioni europee e si possa fare un congresso vero, un congresso di discussione, un congresso di costruzione del senso comune e dell'identità collettiva di un partito. Io cercherò per la mia parte, ripeto, con la discrezione totale di aiutare gli altri. Quello che posso garantire a chi verrà dopo di me, e che vale per me un principio antico, non fare agli altri, io non posso dire quello che non vorresti, quello che è stato fatto a te, non farlo agli altri, io non lo farò. Il PD è e resta la ragione politica della mia vita. Lascio con assoluta serenità e senza sbattere la porta, prosegue Veltroni, non bisogna guardare indietro e pensare che ci sia un ieri migliore dell'oggi. Bisogna superare divisioni e personalismi. Negli ultimi anni Berlusconi è rimasto lì che vincesse o perdesse. Noi in questi anni abbiamo cambiato 6 o 7 leader. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. E sulle dimissioni di Veltroni il commento del direttore del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli, che va in onda ogni giorno, come sapete, alle 8.35 con il suo asterisco. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Veltroni ha lasciato con un gesto inusuale per la politica italiana, anche se obbligato dopo il voto sardo. Paga anche per colpe non sue. È un partito di correnti, il PD, di piccoli notabili, di cacicchi locali che in pochi mesi hanno ridotto in briciole un progetto riformista ed europeo. Il paradosso è che se non fosse nato il PD, non sarebbe nato nemmeno di conseguenza il PDL, che ha la fortuna di avere un segretario leader più forte, diciamo così padronale, carismatico, in grado di far vincere in Sardegna persino lo sconosciuto figlio di un suo commercialista. Il PD sarà probabilmente retto ora da un reggente, che reggerà però ben poco, fino all'europeo, forse. Quello che appare necessario, e non solo nella politica, è un profondo ricambio generazionale. Nel PD le facce nuove si sono viste soltanto ieri, nel momento della sconfitta, quando i leader non avevano nemmeno il coraggio di farsi vedere in pubblico. E a proposito di rinnovamento generazionale, Valentina Furlanetto ne ha parlato questa mattina con Matteo Renzi, 34 anni, vincitore delle primarie per il candidato sindaco di Firenze, enfant prodige del Partito Democratico. Noi abbiamo un gruppo dirigente che per 2 anni si è preoccupato più di parlarsi a mezzo stampa che non di affrontare i temi veri, i problemi reali, quelli che sono le questioni che attanagliano la vita delle persone. E in questo senso hanno prodotto un distacco oggettivo tra le passioni e gli entusiasmi di cui il PD è comunque ricco e un gruppo dirigente che, selezionato senza preferenze, sempre più lontano dalla realtà delle persone, come dire, ha oggettivamente prodotto un disastro. Per il dopo Veltroni si fanno i nomi di Franceschini e Bersani. Ma io credo che non sia opportuno per me mettermi a discutere di nomi. Certo, se c'è Veltroni e poi Veltroni se ne va e mettiamo il suo vice, non capisco perché se ne sia andato Veltroni, allora ecco. Chiedete quindi un rinnovamento totale, si sta mettendo in gioco? Ho chiesto ai fiorentini la fiducia per fare il candidato sindaco e ritengo di dovermi occupare di questo. Sul livello nazionale non intervengo e non metto bocca, dico soltanto che occorre coraggio. Si può dare una lettura della sua vittoria a Firenze che abbia un senso anche nazionale? A Firenze ha vinto un gruppo che ha tenuto insieme persone provenienti da esperienze personali molto differenti e che però hanno messo insieme che cosa? Hanno messo insieme intanto la voglia di recuperare la passione. Dall'altro il fatto che noi avevamo contro 2 autorevolissimi parlamentari, uno più vicino a Veltroni, uno più vicino a D'Alema, e se la base del PD fiorentino ha dato fiducia a noi, forse questo potrebbe suonare come una richiesta di svolta anche da parte dei militanti. Questo dunque Matteo Renzi al microfono di Valentina Furlanetto e la satira dei giornali si va dal Yes the End di LK su Repubblica al Vauro di questa mattina sul Manifesto. Ci sono 2 bambini di colore che dialogano tra di loro. Veltroni si è dimesso, cazzo, sta a vedere che ce lo ritroviamo qui per davvero. Ed ora torniamo alle elezioni in Sardegna, all'origine delle dimissioni del segretario del PD Veltroni, elezioni regionali che come sapete hanno cambiato il volto politico dell'isola e nelle quali, nonostante il cambio alla guardia della regione, sembra in realtà aver premiato la voglia di continuità. Sentite perché. Siederanno pochissime donne e molti politici di professione sugli 80 seggi del 14° Consiglio regionale della Sardegna, eletto fra domenica e lunedì soltanto dai 2/3 dei sardi. La consultazione che ha portato alla pesante sconfitta del presidente uscente Renato Soru e ancor più della sua coalizione di centrosinistra rivela una scarsa propensione al rinnovamento. Non ha pagato evidentemente la scelta di Soru di imporre il vincolo dei 2 mandati che ha impedito la ricandidatura di molti big del PD e fatto saltare l'alleanza con i socialisti in corsa da soli. Spariscono dall'assemblea sarda dove spicca invece il rafforzamento dei sardisti premiati dal sostegno al candidato vincente Ugo Capellacci. In attesa dei dati ufficiali si prospettano appena 6 donne onorevoli, forse 7, 3 delle quali elette nel listino di Capellacci. Il centrosinistra riuscirà probabilmente a portarne 2. Nel complesso nell'aula si vedranno il solito numero di donne e moltissimi volti noti sullo scranno da almeno una legislatura o provenienti da esperienze politiche nei grandi comuni dell'isola. Roberta Secchi, GR24, e Sole 24 Ore, Cagliari. Oltre al segretario del Partito Democratico c'è un'altra cosa che cambia, la legge elettorale per le europee. L'Aula del Senato infatti ha definitivamente approvato il DDL che introduce la soglia di sbarramento del 4% sulla legge appunto per le europee. Ampia la convergenza parlamentare, i voti favorevoli sono stati 230, solo 15 contrari, 11 gli astenuti. Ed ora la pagina di cronaca, arrestati 2 rumeni ricercati per l'aggressione al parco della Caffarella a Roma. Questo arresto rinforza in tutti noi la fiducia nelle forze dell'ordine alle quali va il mio apprezzamento e ringraziamento, ha detto stamattina il presidente del Senato Schifani. Ma andiamo a Roma, dove le forze dell'ordine questa mattina hanno spiegato la dinamica dell'arresto. Era lì per noi Paola Anania. Buongiorno, un'indagine tradizionale, così l'hanno definita dalla Questura di Roma, in cui è stata fondamentale la collaborazione dei 2 ragazzi aggrediti, come ricordavate il giorno di San Valentino nel parco della Caffarella. Grazie a loro è stato subito tracciato l'identikit degli aggressori e confrontato con alcune foto di archivio. Si tratta di 2 romeni bloccati tra ieri e oggi. Il primo, 20 anni, pregiudicato, è stato fermato nella notte e ha confessato quasi immediatamente. A questo proposito sentiamo il capo della squadra mobile di Roma, Vittorio Rizzi. Si è reso conto che non aveva possibilità di sottrarsi a una successiva cattura e ha cominciato a rendere una piena confezione grazie alla mediazione linguistica ma soprattutto investigativa dei colleghi della polizia rumena. Ha parlato di un'iniziale volontà di porre in essere una rapina trasformatasi in un reato odioso, in una condotta ancora più tragica, ovvero in un abuso sessuale. Questo ragazzo era noto ai nostri atti, era stato arrestato anche. Il secondo, 36 anni, il secondo rumeno stava per fuggire all'estero e si era nascosto in un campo nomadi di Livorno dove è stato fermato qualche ora fa. È probabile che uno dei due sia anche coinvolto nello stupro di fine gennaio a Prima Valle, sempre a Roma, nella periferia romana. Per ora è tutto. Grazie Paola Nania. E in effetti su uno dei due fermati pesano proprio i sospetti per un altro stupro. Il giovane era stato espulso, fermato e poi rilasciato. Sentiamo. Per le forze dell'ordine è una vecchia conoscenza, pregiudicato per furto e ricettazione per 3 volte. Alexandru Istoica Loios ha beffato la legge italiana. A suo carico nel 2008 l'ex prefetto di Roma Carlo Mosca aveva firmato un provvedimento di espulsione in forza del decreto Prodi. Il contestato decreto varato all'indomani dell'omicidio di Giovanna Reggiani che consentiva l'allontanamento di centinaia di indesiderabili, soprattutto romeni. Qualche tempo dopo Loios viene fermato a Bologna, ma l'espulsione, anziché eseguita, viene annullata dal tribunale della città che la ritiene ingiustificata. Il giovane è così libero di tornare a Roma, trova ospitalità nel campo nomadi abusivo di via Andersen, quartiere Prima Valle, dove il 21 gennaio una donna di 40 anni viene aggredita e violentata. 3 giorni dopo, Loios, insieme al complice, quello stesso Carol Ratz, preso a Livorno, pregiudicato per furto in Romania, viene fermato per accertamenti, identificato e accompagnato alla divisione immigrazione. Ma dalla testimonianza della vittima non arrivano elementi forti, non ci sono procedimenti pendenti a carico. Così Loios, dopo qualche ora, viene rilasciato. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E il ministro degli esteri rumeno Cristian Diaconescu ha annunciato ieri sera in TV che il 23 febbraio, quindi lunedì prossimo, sarà a Roma per discutere con il collega italiano Frattini delle tensioni sorte fra i due paesi sui temi della sicurezza e dopo i casi di violenza sessuale per i quali sono stati fermati appunto cittadini rumeni in Italia. Cambiamo argomento: innovare per combattere la crisi. È questo il tema del Festival delle Città d'Impresa, il secondo presentato a New York, un festival sul produttivo Nord-Est, la ribattezzata Innovation Valley. Sentiamo. Tra le luci un po' più fioche di New York, almeno 70 indirizzi rimandano ad un'origine nel Nord-Est e sono tutti nomi d'eccellenza. Se è stata l'innovazione di qualità a trasformare una miriade di separati capannoni in un'unica valle creativa di marchi internazionali, evoluzione delle ville palladiane, la stessa innovazione ora viene additata come la strada maestra contro la crisi. Con questa parola d'ordine è stata presentata all'Istituto Italiano di Cultura la seconda edizione del Festival delle Città d'Impresa dal 2 al 5 aprile insieme alla mappa di questa Innovation Valley, 450.000 aziende solo nei 581 comuni veneti. Mentre le vetrine di Madison Avenue, travolte dal vento di crisi, annunciano saldi fino all'80%, gran parte del Made in Italy, anche se colpito dai cali, può contare sulla solidità dell'azienda madre, riflette il console generale a New York, Francesco Maria Talò. Nostre imprese che sono finanziariamente solide riescono probabilmente a cogliere anche le opportunità che sono presenti in ogni crisi. I valori fondamentali e quindi quelli che sono più legati alla cultura sono le armi vincenti. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. Le 13:19, queste notizie di questa mattina. Al mio successore non chiedete con l'orologio in mano di ottenere dei risultati, dice il dimissionario Veltroni, perché un grande progetto ha bisogno di anni, non si realizza in 4 mesi. L'ormai ex segretario del Partito Democratico chiede scusa per gli errori commessi. Io devo dire di non avercela fatta ed è responsabilità mia, la prendo sulle mie spalle, tutta per intero, di non avercela fatta a fare il partito, non solo che sognavo io ma che sognavano i 3,5 milioni di persone che hanno votato alle primarie. Non ce l'ho fatta e chiedo scusa di non avercela fatta. I due giovani riconoscono gli aggressori, 2 rumeni, uno già sospettato di un'altra violenza. Non voglio più vedere quelle facce, dice la 14enne stuprata, la Caffarella. Un ragazzo fragile, così il vicequestore della polizia di Chioggia descrive ai nostri microfoni il tredicenne che ieri ha accoltellato a scuola il professore di musica. Fra poco l'intervista. Gambizzato all'uscita del teatro il regista Stefano Calvagna. Nei suoi film temi come l'usura e le violenze degli ultrà. Ascolti record per la prima serata del Festival di Sanremo, 1 milione speso bene quello per Bonolis, per il direttore di Rai 1 del Noce, però dice l'anno prossimo ci sarà un altro conduttore. Un incendio è divampato nel centro di identificazione ed espulsione di Lampedusa, dove questa mattina ci sono stati anche scontri fra un gruppo di migranti e le forze dell'ordine. Ne sa di più Giampiero Casagni, buongiorno. Sì, buongiorno. Alcuni immigrati, per lo più tunisini, hanno dato fuoco al centro di accoglienza di Contrada in Beacola di Lampedusa. Adesso nella struttura ci sono fiamme altissime e fumo che ha già provocato l'intossicazione di una decina di poliziotti che sono stati portati al polioambulatorio. In mattinata nel centro di identificazione ed espulsione c'erano stati scontri fra forze dell'ordine e immigrati che non vogliono essere rimpatriati e vogliono lasciare l'isola. Poi la situazione è degenerata, gli immigrati hanno appiccato il fuoco nella palazzina centrale che è andata completamente distrutta. Adesso nel centro ci sono i vigili del fuoco, molti migranti sono stati messi in sicurezza distanti dalle fiamme. Il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, dice che non risultano immigrati ricoverati al poliambulatorio e quindi non sappiamo se qualcuno sia dentro l'immobile distrutto dalle fiamme. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha chiesto di evacuare dal centro migranti e operatori per evitare intossicazioni e ustioni. Ieri il sindaco di Lampedusa De Rubeis era stato sentito dai magistrati della procura di Agrigento come persona informata sui fatti e i magistrati gli erano chiesto informazioni sui centri di accoglienza, su quello di Capoponente, il CIE, ma anche sulle condizioni di vita dei tunisini trattenuti nel centro. È tutto, linea di studio. Grazie Giampiero Casagna, vedremo più avanti se ci sono altre notizie sul centro di Lampedusa. Migliorano invece le condizioni del professore di musica Fabio Paggioro, accoltellato alla schiena da un allievo di 13 anni al termine di una lezione di violino alla scuola Silvio Pellico di Chioggia in provincia di Venezia. Intanto la scuola sta valutando quali provvedimenti assumere nei confronti del tredicenne, mentre il magistrato della procura dei minori che si occupa del caso sentirà il ragazzo nei prossimi giorni. Paolo Piacenza, sentito poco fa il vicequestore Antonello Zara che si occupa del caso. Posso fare dichiarazione perché già il magistrato era un po' arrabbiato stamattina. Le dichiarazioni fatte anche dalla parte offesa che si è lasciata intervistare, insomma, un po'. E posso confermare più di meno di quello che è stato detto, ecco. Episodio da scrivere in questo rapporto che c'è tra l'insegnante, insomma, sul fatto di che magari certi rimproveri, chiamiamoli così, del professore, ma anche più che altro consigli, sono stati visti come dei rimproveri, ecco. E lui la. Magari il fatto che siano durati che per molto tempo, cioè non è stato un episodio, magari si sente richiamato già da tanto tempo, ha incamerato insomma questo forte risentimento nei confronti dell'insegnante. Poi dopo ci sono delle concause di tipo familiare o carattere del soggetto, questo non spetta a me dirlo, insomma, adesso. Cioè, non è normale sicuramente che una persona, un ragazzo di 13 anni, stia a incontrare un professore. L'unica conferma che le chiedo è che l'ambiente familiare era assolutamente normale per quello che vi consta. Sì, sì, non parliamo di minori in stato di degrado, di abbandono, no, niente di tutto ciò. Quello che può emergere è forse un carattere forse introverso, e in mancanza di autostima del soggetto, magari l'ha potuto fare questo gesto, ecco, però forse una persona fragile anche emotivamente, ecco. Il vicequestore al microfono del nostro Paolo Piacenza. Ancora la cronaca, perché 7 tifosi del Milan sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rissa aggravata e lesioni per lo scontro avvenuto in occasione del derby domenica scorsa. Secondo la ricostruzione, gli scontri sono nati quando gli ultramilanisti hanno infastidito altri tifosi dell'Inter che si trovavano nell'anello sottostante con uno striscione che evidentemente impediva loro la visione della partita. E si era occupato molto anche di ultra il regista romano Stefano Calvagni, gambizzato ieri sera al termine di uno spettacolo teatrale. Ha sempre trattato temi sociali nei suoi film, dalla pedofilia all'usura, dalla delinquenza agli ultras del calcio, rischiando sulla sua pelle. E ieri sera lo hanno gambizzato. Il 39enne regista romano Stefano Calvagna era appena uscito dal Teatro Anfitrione a Roma, dove era di scena un suo spettacolo intitolato Incastrati nella rete, sul tema del pericoloso e smisurato sviluppo di Internet. Fuori dal teatro ad aspettarlo due uomini a bordo di una moto. Gli hanno sparato 5 colpi di pistola. Uno lo ha centrato proprio ad una gamba. Impegnato nel cinema dal 1999, Stefano Calvagna ha fondato nel 2005 la Poker Film, una piccola società di produzione situata all'interno degli studios di Cinecittà. Nel 2006 ha realizzato un film sulla vita di Luciano Liboni, meglio conosciuto come Il Lupo, un criminale di origini umbre ucciso a Roma 2 anni prima. E ultimamente stava girando una pellicola dedicata al mondo degli ultras, un mondo che Calvagna ben conosce per averne fatto parte in passato. Le minacce per il regista non erano una novità e nel luglio dello scorso anno aveva anche ricevuto una busta con 3 proiettili. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Allenatori italiani all'estero, comincia a diventare un vero e proprio fenomeno e sono molti quelli chiamati a sedersi sulle panchine delle più prestigiose squadre nazionali del mondo. L'ultimo ieri, Daniele Bagnoli, nominato CT della nazionale russa di pallavolo. Qualcuno già parla di fuga di cervelli, altri esaltano il Made in Italy alla conquista dello sport mondiale. Quel che è certo è che l'allenatore italiano all'estero piace, e come. L'ultima conferma? Daniele Bagnoli, 56 anni, già coach della Dinamo Mosca, è stato nominato tecnico della nazionale russa di pallavolo, bronzo olimpico a Pechino 2008 proprio ai danni degli azzurri. E poche settimane fa Sergio Scariolo, che ora allena il Khimki Mosca dopo una lunga militanza nel campionato iberico, era stato scelto come capo allenatore della nazionale spagnola di basket, seconda alle Olimpiadi solo agli Stati Uniti delle stelle NBA. Tendenza che conferma quanto accaduto nel calcio, con Fabio Capello al timone della nazionale di chi il calcio in fondo lo ha inventato, cioè l'Inghilterra, e il giramondo Giovanni Trapattoni che guida dalla panchina la nazionale irlandese. Capacità di gestire il gruppo, professionalità, abilità nel rapporto coi media, le qualità che fanno apprezzare i tecnici italiani. La prossima frontiera da conquistare? Proprio quella dei canestri dorati dell'NBA. Ettore Messina è da tempo impredicato di sedere sulla panchina dei Toronto Raptors. Del resto il freddo del Canada per lui non sarebbe un problema, visto che da 4 anni allena il CSKA a Mosca, campione d'Europa in carica. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:32 minuti, abbiamo evidentemente qualche problema tecnico per la sigla. Queste le principali notizie di questa mattina. Non ce l'ho fatta a fare il partito che sognavamo io e milioni di italiani, ed è la responsabilità mia, Veltroni ha spiegato così questa mattina davanti al partito il perché della sua decisione di dimettersi. Andiamo avanti con le altre notizie. Lo stupro della Caffarella, presi anche grazie alla collaborazione dei poliziotti romeni, 2 aggressori della Caffarella. Uno di loro era già sospettato di un'altra aggressione. Il vicequestore Giuseppe Caruso. Uno dei 2 stupratori rapinatori che abbiamo ieri trovato dentro una tenda in un campo nomadi di Primavalle. Abbiamo trovato l'altro complice di 36 anni in un campo nomadi di Livorno, è arrivato qui a Roma penso un tre quarti d'ora, un'oretta fa. E a Lampedusa, scontri nel centro di detenzione per gli immigrati, è scoppiato un incendio, gli scontri riguardano un centinaio di tunisini e le forze dell'ordine, secondo i carabinieri sono stati gli stessi stranieri a provocare l'incendio. Litigavano da tempo il 13enne e il prof della scuola media di Chioggia, ieri durante la lezione l'accoltellamento, un ragazzo normale, racconta a Radio 24 il capo della polizia di Chioggia, Antonello Zara. Non parliamo di minori in stato di degrado, di abbandono, no? Niente di tutto ciò. Quello che può emergere è forse un carattere forse introverso, e in mancanza di autostima del soggetto non ha potuto fare questo gesto, ecco, però forse una persona fragile anche emotivamente, ecco. Confcommercio, peggiorano le previsioni per il 2009. Nei prossimi 12 mesi il PIL registrerà un calo dell'1,8%. In ribasso anche i consumi, previsti giù dello 0,9%. Dal calcio alla pallavolo, in panchina piace il Made in Italy. Le grandi nazionali del mondo scelgono allenatori azzurri. Ed eccoci ai dati economici di giornata. Il nuovo minimo storico per l'Euribor a 3 mesi, il tasso che le banche applicano tra loro per i prestiti trimestrali, sceso oggi dall'1,91% all'1,9%. È il livello più basso dall'introduzione dell'euro e sono naturalmente buone notizie per chi paga il mutuo, anche se poi gli adeguamenti delle banche, come sappiamo, non sempre sono automatici. Ahimè sì. I commercianti vedono nero, sono in peggioramento le previsioni per il 2009 secondo l'ufficio studi della Confcom. Commercio ci racconta tutto Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. È un quadro congiunturale non certo esaltante quello messo in luce dall'indagine sullo stato dei consumi degli italiani presentata questa mattina dalla Confcommercio, realizzata in collaborazione con il Censis. Sarà una crisi più lunga e acuta di quanto previsto, viene evidenziato nello studio. Tuttavia è consistente la percentuale di famiglie italiane che esprime fiducia per il medio termine. Per non scoraggiare questo zoccolo duro, dice la Confcommercio, è necessario che il governo prenda provvedimenti più coraggiosi. Occorre, insomma, secondo il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, fare subito qualcosa di concreto. Sentiamo le sue parole. Esce una fotografia di una crisi certamente più lunga e più acuta di quanto previsto, ed c'è anche una situazione certamente di grande preoccupazione per il settore del commercio. Nel 2008 si sono chiuse 120.000 imprese, per la prima volta dopo tanti anni. Tra natalità e mortalità il saldo è un saldo negativo di meno 40.000 imprese. Questo è un dato fortemente preoccupante, che diventa ancora di più preoccupante se si considera che parallelamente il tasso di disoccupazione può raggiungere, se non superare, l'8%, e quindi ci sarà una caduta del reddito reale disponibile con una conseguente contrazione dei consumi, della domanda e quindi della crescita. Grazie a Vincenzo Miglietta. E di crisi e delle sue conseguenze si è parlato anche a Bruxelles quest'oggi. This year the assessment needs to pay a lot of attention to the way. Queste sono le parole del commissario Almunia, che ha detto: la Commissione europea ha proposto oggi di aprire la procedura di deficit eccessivo nei confronti di 6 paesi, sono Francia, Spagna, Grecia, Irlanda, Lettonia e Malta, che nel 2008 hanno superato la soglia del 3% nel rapporto tra deficit pubblico e PIL. Il commissario Almunia ha sottolineato che nel 2010, quando si prevede, speriamo, una ripresa della crescita economica, le politiche di bilancio dei singoli paesi dovranno tornare ad essere rigorose e a puntare al risanamento dei conti pubblici. Ieri la firma di Barack Obama sul piano di stimolo all'economia da 787 miliardi di dollari, come sapete. Un piano che ha fatto storcere il naso a non pochi economisti seguaci di Obama fin dall'inizio. Fra loro John Talbot, già banchiere di investimento alla Goldman Sachs, ora autore di libri di economia. L'ultimo è Obanomics, edito dall'Università Bocconi. Talbot critica il piano di stimolo varato dal Congresso, spiegandone il perché al nostro Sergio Nava. Thinking about this specific plan, it did get watered down considerably. Parlando di questo piano di stimolo, posso solo dire che è stato annacquato considerevolmente. È successo che i repubblicani vi si sono intromessi richiedendo che una percentuale significativa del piano stesso andasse ai tagli fiscali. Anche se la maggior parte degli economisti concorda sul fatto che questa non sia la forma migliore per far ripartire l'economia. Se mettiamo soldi in circolo mediante tagli fiscali, possiamo solo aspettarci che la maggior parte di questi fondi non venga spesa. La maggioranza degli economisti ritiene che sia meglio affidare al governo la spesa di questi soldi anziché ai cittadini. L'idea di un piano di stimolo è quella di spendere denaro per produrre PIL quest'anno, anche a costo di rischiare un calo del PIL in futuro. Lo si fa per fermare la spirale a ribasso: meno consumi, meno investimenti, più disoccupazione. In secondo luogo, se guardiamo ai dettagli di questo piano, scopriamo che Nancy Pelosi e i democratici al Congresso hanno avuto una parte importante nella sua redazione. Ci sono intere parti che non sono scritte per massimizzare l'occupazione e i consumi, ma piuttosto per favorire una serie di desiderata del programma democratico. Se Obama va al Congresso e propone di spendere 800 miliardi, non si capisce perché i democratici vi sottraggano fondi per pagare i loro progetti. Infine, 200 miliardi di questo piano vanno a ripianare i debiti delle autorità statali, locali, magari salviamo il lavoro di poliziotti, insegnanti, ma certamente non ne creiamo di nuovi. Obama inizialmente aveva proposto questo piano per creare 4 milioni di nuovi posti di lavoro, ora invece parla di 4 milioni di posti di lavoro creati o salvati. Non è esattamente la stessa cosa. Abbiamo tutti ascoltato un messaggio diverso in campagna elettorale. Obama parlava di cambiamento, voleva ripulire Washington. Noi sapevamo che il sistema di Washington era corrotto, corrotto da contributi elettorali, lobbying, da interessi particolari. Gli americani volevano una bella ripulita. Questo compito è probabilmente troppo grande per un singolo individuo. Io penso che se Obama manterrà il proprio impegno, lo dovrà fare utilizzando tutte le proprie abilità di leadership, di comunicatore, e tutte le sue motivazioni per riportare gli americani al governo, sottraendone dunque il controllo agli interessi particolari. Aggiungo anche che questo non era probabilmente il momento migliore per le persone intenzionate a spazzar via la corruzione dal Congresso. Questo piano andava tradotto in legge subito. Obama ha probabilmente convenuto che non poteva cambiare le regole già con questo piano. Ora doveva tirar fuori dei dollari per stimolare l'economia e stabilizzarla, per poi focalizzarsi su sfide più complesse e di lungo termine, quali ripulire Washington. La nostra finestra sul mondo arabo di oggi è dedicata a due casi di cronaca. Due delitti scuotono le coscienze del mondo islamico. La prima arriva dagli Stati Uniti, dove un musulmano ha decapitato la moglie perché voleva lasciarlo. La seconda dall'Arabia Saudita. Un padre è stato preso in flagranza di reato mentre stava abusando sessualmente di sua figlia di 10 anni. Un importante esponente della comunità musulmana di Buffalo, nello stato di New York, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio per avere decapitato la moglie. La donna, che aveva chiesto di recente il divorzio, è stata trovata cadavere nella sede della TV dove lavorava, che era stata fondata proprio dal marito. Ma mentre la giustizia USA cerca l'arma del delitto e indaga sul movente, quella saudita, molto più spedita, ha già chiuso il caso. Il padre, sorpreso da una pattuglia mentre stava abusando della sua bimba in auto, è stato condannato per direttissima a 10 anni di carcere e 8.000 frustate. Adi Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Questa invece è cronaca di casa nostra. Torniamo infatti a Lampedusa, dove, come vi abbiamo già riferito, sono scoppiati questa mattina scontri. Giampiero Casagni, quali le novità? Le novità sono che, diciamo, la rivolta è stata quasi completamente sedata, anche se gli immigrati vengono mantenuti all'interno del centro di Contrada Embriacola nonostante il fumo. Vi posso dare un bilancio provvisorio per quello che riguarda le presenze e i trasferimenti nel poliambulatorio dell'isola da parte delle forze dell'ordine. Ci sono 15 fra carabinieri e poliziotti intossicati, è intossicato anche un vigile del fuoco di Lampedusa e sarebbe in condizioni più gravi, e anche un immigrato è stato portato al poliambulatorio. La cosa da segnalare, appunto, che c'è ancora molto fumo nel centro, negli immigrati. Quindi non ci sono più le fiamme, ma il fumo resta e ci sono degli intossicati, uno anche grave. Le 13:45 minuti, queste le notizie principali del mattino. Il mea culpa di Veltroni, non ce l'ho fatta e chiedo scusa, ora non fate ad altri ciò che è stato fatto a me. Sabato, l'assemblea costituente del PD. Lo stupro della Caffarella, i due giovani riconoscono i loro aggressori, due rumeni, uno già espulso, fermato per un'altra violenza e rilasciato. Fiamme domate, ma ancora tanto fumo al centro di identificazione e espulsione di Lampedusa. Questa mattina sono scoppiati scontri tra un centinaio di tunisini e le forze dell'ordine. Sorride e fa bene la Rai. 14 milioni di spettatori per la prima serata di Sanremo. Del Noce, 1 milione ben speso, quello per Bonolis. Vorrei vedere se questi sono i dati. Credo proprio che i rientri economici per la RAI saranno altissimi. Non ci resta che andare. Chissà se è un record, adesso glielo chiediamo. Dalla nostra Marta Cagnola, ciao. Eccoci qua, tutti contenti qui a Sanremo, perché la formula, lo dicevamo ieri, risparmio e rilancio, pare proprio che abbia funzionato. Però dobbiamo dare per forza i numeri. La serata d'apertura della 59ª edizione è stata seguita da 14.173.000 spettatori, con il 47,5%. con la 11 di share, cioè quasi uno spettatore su due nella prima parte, da 6 milioni con 49,51% di share nella seconda, quindi praticamente anche qui uno spettatore su due, oltre 10 punti percentuali in più rispetto all'esordio di festival dell'anno scorso. Però non, cioè, ci voleva molto sull'anno scorso, visto che era andato così male. Scusa Marta, ma chi è che parla? È Bonolis in sottofondo? Chi è? Ma proprio in questo istante si è messo a parlare il capo supremo della sala stampa, quindi sono in ascolto perché sta dando degli altri numeri, insomma oggi è il giorno dei numeri, certo. Insomma, sono molto molto contenti, ma sentiamo proprio le voci dei protagonisti, perché poco fa hanno parlato del Noce e Bonolis, molto contenti, sentiamo cosa hanno detto. Un festival che riceve i complimenti per la qualità ma non faccia ascolti è come porre una bella corona di fiori sul capo di un defunto, ecco, non va bene, quindi per noi gli ascolti sono essenziali, perché testimoniano che un evento nazional popolare è recepito come tale dagli italiani, non è uno spettacolo di nicchia. Non dimentichiamo che poi siamo qui tutti a darci le pacche sulle spalle, ma se questo festival è entrato, come sembra dai risultati, nella testa delle persone, è perché in questo festival è stata cavalcata la musica. Ho visto la platea muoversi, non mi era mai capitato, per un attimo ho pensato a una scossa tellurica. Cazzarola, erano vivi sì in galleria, lo so, erano vivi anche in platea, è una soddisfazione insomma. E allora credo che questo ritmo sia stato uno degli ingredienti che ha smosso questo pubblico e li ha trasformati in tanti Lazzaro che sono tornati tra noi. Ecco, in questo ritmo, ma si prende anche Roberto Benigni, perché lui ha fatto più di 15 milioni di telespettatori. Questa sera, l'ha detto anche Bonolis, ci sarà ovviamente un caso fisiologico, però la sorpresa sarà che ci sarà la PFM per la prima volta sul palco dell'Ariston, con Claudio Santamaria e Stefano Accorsi celebreranno Fabrizio De André. Ci saranno anche insomma le bellezze, come ieri sera un modello israeliano Mirlavi, veramente spettacolare, e bellissima l'Étoile Eleonora Bagnato. Se volete sapere che canzoni ci sono, canteranno i 13 campioni superstiti. Ecco, parliamo un po' di musica, sennò Bonolis si arrabbia. Ci saranno i 13 campioni superstiti dopo le eliminazioni di ieri sera e le altre 4 nuove proposte. Marta, ma non si prenderà un po' troppo sul serio questa Rai 1? Abbiamo visto una striscia adesso, prima del TG delle 13.30, chiamata addirittura Sanremo Question Time, che deve essere durata forse una mezz'oretta. La guardavo con la coda degli occhi. Insomma, non è un po' troppo? Ma noi qui in sala stampa, che siamo i protagonisti di questa striscia, diciamo con un po' di cattiveria ma sorridendo, insomma, che la Rai è riuscita a fare mezz'ora di spettacolo senza pagare una lira, che noi già partiamo. Certo. Senti, un altro anno però non ci sarà Bonolis, si comincia già a parlare anche del dopo Bonolis, anche se, mannaggia, dopo la prima serata un po' presto forse. E poi diceva del Noce, 1 milione ben speso. Allora, Del Noce ieri ha detto: io mi fido solo di Bonolis. Oggi hanno chiesto a Bonolis se quando si vince così a Sanremo si soffre poi della sindrome di Baudo, che non vuole più mollare la sedia, ma lui aveva detto: probabilmente è il mio ultimo Sanremo, perché due nella vita bastano. Non si sono ancora fatti altri nomi. E poi questo milione ben speso, beh, diciamo che con il rischio che si correva per un ridimensionamento del festival, forse in questi termini Del Noce ha ragione. Certo, vabbè, almeno abbiamo pagato tutti questi soldi, perché ecco, abbiamo pagati un po' tutti noi. A proposito di soldi, Marta, non vorrei fare la parte del gufo, non so, quello che Barisoni usa in Focus Economia ogni giorno quando ci sono notizie cattive, però c'è qualche segno, non so, di austerity lì anche tra i giornalisti, tra i commentatori, tra i cantanti, qualche fiore in meno, non so. Allora, intanto sui soldi vi voglio dire che il collega del Gazzettino Gioalaimo ha fatto il conto e dice che ci è costato Bonolis a tutti 2 centesimi di canone, e quindi ha chiesto a Bonolis ieri di riavere indietro i 2 centesimi nel caso in cui il festival non fosse andato bene. Oggi gli ha detto che i 2 centesimi non li deve restituire. No. Sì, molti meno inviati, molte estate hanno ridotto il parco inviati, i fiori ci sono, ce ne sono tanti. Devo dire, ieri abbiamo fatto un po' arrabbiare tutti, perché abbiamo detto che c'erano troppe mimose e non si respirava. Oggi hanno cambiato i fiori. Poveri allergici. Sono bellissimi, sono molto belli, devo dire. Grazie Marta, ci sentiamo naturalmente nel corso dei prossimi giornali radio e domani con Extra Large. Goditi la serata in onore di Sanremo, un romanzo che parla del festival proprio. Ogni capitolo con un titolo di una canzone sanremese, da Si può dare di più a Vola Colomba. In realtà il festival è solo lo sfondo per raccontare una storia di sentimenti. Il libro si chiama Infinita Notte, scritto da Alessandro Zaccuri, finalista al premio Campiello nel 2007 con Il Signor Figlio, e pubblicato da Mondadori. Ecco come Zaccuri parla del suo romanzo al microfono di Alessandra Tedesco. Per citare una canzone sanremese si potrebbe dire che sono tre uomini soli, come nella canzone dei Pooh. Sono tre uomini di età, condizioni, ambizioni differenti che capitano a Sanremo nella settimana del festival. Uno di loro si chiama Miles e non sa neppure che c'è il festival, perché ha una storia forse d'amore o forse no da seguire che lo ha condotto lì. Poi c'è un ragazzo che si fa chiamare con tanti nomi, l'ultimo è Gabo, che canta a Sanremo ma non sul palco dell'Ariston, canta le sue canzoni per strada e chissà se finirà alla fine, se finirà anche lui appunto sul palcoscenico. E poi c'è Gabriele, che è un giovane autore, è la persona giusta per fare del festival qualcosa di molto chic, e quindi si trova in questo retrobottega delle cinque serate del festival, tra funzionari Rai, tra autori più esperti di lui, tra personaggi che sanno tutto di questo strano meccanismo che è il Festival di Sanremo. Insomma, leggendo Infinita Notte scopriamo qualcosa in più dei retroscena di Sanremo, ma soprattutto seguiamo delle storie umane. Sì, l'ambizione sarebbe quella. Proprio per questo una delle storie non è direttamente legata con il festival, proprio per questo via via che le trame parallele procedono e a un certo punto tendono quasi a convergere, ci si accorge che non si parla del successo di una canzone, ma si parla per esempio del rapporto tra padri e figli. Oppure c'è questo tema di che cosa può voler dire per un uomo potente essere tentato negli affetti, nell'infedeltà coniugale, eccetera, eccetera, e se ci può essere una via d'uscita un po' più imprevedibile, diciamo, rispetto ad altre che vediamo anche nella cronaca. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. In studio Alessio Maurizi e Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi e Barbara Bianchi. L'appuntamento è a domani. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.